vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 17 dicembre, il sole in regione è sorto alle 7.44 e tramonterà alle 16.22. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. L'Università di Udine dedica un master alle nuove professionalità del settore primario da sviluppare nei territori montani. La leggenda e le tradizioni del vischio natalizio nel corsivo di Licio Damiani. Le arachidi alias Bagigi, un legume dalle mille stranezze e proprietà che spesso abbiniamo al Natale. L'eccellenza di un vino si può e si deve programmare già al momento della macerazione del pigiato. Il Tiglio di Napoleone nel Tarvisiano, un grande albero della regione che l'insensibilità dell'uomo ha messo in pericolo per la sua bellezza. Per tradizione la vigilia di Natale si mangiava di magro, lo vuole la tradizione appunto, che ha sviluppato anche una serie di modi di dire per la sua osservanza. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. L'Università di Udine pensa alla montagna, all'agricoltura, o meglio, al settore primario della montagna. Lo fa con un master dedicato in partenza in questi giorni. Di cosa si tratta? Ce lo spiega la direttrice, che è la professoressa Ivana Bassi, che all'Ateneo Udinese insegna economia agraria montana. A breve, vale a dire a febbraio, partirà la prima edizione di un master di primo livello, che ha come titolo Innovazione dei sistemi agro-silvo-pastorali della montagna, imprese e territori. Sono 5 moduli che hanno come scopo quello di fornire conoscenze e competenze sulla montagna, sulla capacità di fare imprese in montagna e sulla capacità di gestire il territorio della montagna. Un modulo si occupa di sistemi ambientali. Tratteremo gli argomenti quali la geologia, l'idrologia, la fauna, la flora, cioè gli aspetti naturalistici, gli aspetti riguardanti le risorse naturali della montagna. Nel secondo modulo tratteremo il tema delle filiere produttive, quelle vegetali, erbacee ed arboree, ad esempio la castanicoltura, la filiera legno, la filiera zootecnica. C'è un terzo modulo che guarda alle imprese e come tali, ma anche alla capacità di fare rete tra imprese. E quindi qui i temi trattati saranno quelli della creazione di impresa, innovazione di impresa, marketing. Poi c'è un quarto modulo. Qui tratteremo il tema del territorio e del paesaggio, quindi che cos'è territorio, che cosa significa paesaggio, come si fa territorio, come ci si può prendere cura del territorio e l'importanza delle comunità locali in questo ruolo attraverso gli strumenti partecipativi. C'è un quinto modulo che è un modulo trasversale perché tratta tematiche che riguardano un po' tutti i moduli precedenti. E andremo a trattare quali argomenti. Il business plan, come un'impresa deve scrivere il proprio piano aziendale. Un altro laboratorio è quello relativo alla progettazione dello sviluppo locale, quindi andremo a studiare le metodologie che ci consentono di progettare, secondo una determinata logica, lo sviluppo locale. Poi c'è un modulo sui sistemi, sui GIS, e un altro modulo di comunicazione. Premettendo che bisogna avere almeno una laurea triennale, sì. A chi è dedicato? Allora, questo master si rivolge alle persone che già vivono in montagna, che già lavorano in montagna e che quindi vogliono migliorare le loro competenze, ma anche a chi ha in mente di trasferirsi in montagna per avviare un'attività. E con voi anche tanti partner. Sì, questo master ha un vasto e importante partenariato che si è costituito in questi mesi, che a vario titolo sostengono il master, e ci sono tutte le comunità di montagna della nostra regione, ci sono i GAL, ci sono i parchi, c'è la Convenzione delle Alpi, CIPRA, c'è il CAI e ce ne sono altri, e mi scuso per tutti quelli che in questo momento non ho ricordato, ma sono tutti indicati nella pagina web del master. Istruzioni per l'uso. Allora, le istruzioni per l'uso sono indicate in maniera molto chiara nella nostra pagina web che abbiamo dedicato a questo, la pagina web dell'Università di Udine, a cui è facile accedere attraverso un motore di ricerca utilizzando solo 3 parole chiave che sono UniUd, Master e Montagna. Per la lettura di corsivi di Licio Damiani raccolti nel volume Vita nei campi, storia, memorie e leggende della campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi proponiamo la leggenda del vischio andato in onda il 18 dicembre del 1994. Il sentore del Natale è già nell'aria, nelle giornate di luce sospesa, fragile. Le festività natalizie hanno in alcune piante dei punti simbolo radicati in tradizioni remote. Sono l'abete, l'agrifoglio, il vischio. L'abete riecheggia forse la figura dell'albero cosmico che collegava cielo e terra. Per questo era considerato analogo al sole. Illuminarlo con candeline, quanto più suggestive e poetiche delle lucette elettriche di oggi, esprimeva la gioia per la rinascita della luce incarnata dal cristianesimo nel Gesù bambino che porta la luce nel mondo. Oggi la simbologia si è perduta nella laicizzazione dell'albero di Natale, divenuto segnacolo spettacolare di una celebrazione dei beni materiali. Ecco allora gli appelli, non ultimo quello degli ambientalisti, per un ritorno all'italico e più familiare presepio ricco di intime dolcezze. Attenzione però, il muschio profumato di terra e di umidità con cui il presepio veniva ornato oggi è protetto e non può essere raccolto, così come il vischio e l'agrifoglio dalle bacche rosse e puntute, un tempo amuleto vegetale da appendere nelle case e nelle stalle contro sortilegi e spiriti maligni. I rami annodati nelle botteghe dei fioristi arrivano adesso in gran parte da oltre confine. A proposito del vischio, ricorderemo la sua aura leggendaria. Era il ramo d'oro frondeggiante sull'ombrosa quercia, celebrato da Virgilio, lamina crepitante al vento lieve. Era il ramo misterioso che cresceva all'ingresso del mondo sotterraneo e che andava donato al guardiano degli inferi per entrare nei campi Elisi. I sacerdoti della Gallia, vestiti di bianco, lo recidevano nelle notti di luna con un falcetto aureo. Poiché frondeggiava sugli alberi spogliati dall'inverno, si riteneva custodisse l'anima delle piante, e il suo non essere radicato nella terra ma nel cuore dei rami oscuri gli donava magia. Pieno e risplendente come il fuoco, capace di trionfare sulle ombre del regno dei morti e di risorgere da esso. È davvero incredibile come le tradizioni più ovvie discendano dai remoti significati del tempo e della storia. Quanti sono gli innamorati che, scambiandosi la notte di Natale il bacio augurale sotto il vischio, sanno dei riti dei sacerdoti druidi e del brillio virgiliano dei rami nella foresta incantata dell'Averno. Forse non tutti sanno che i bagigi crescono sottoterra, ma non è l'unica particolarità di questi legumi che associamo spesso al periodo natalizio, come ci racconta Cristina Micheloni. Ed eccoci al secondo legume natalizio, le arachidi, o noccioline americane, o qui a nord-est, bagigi. Nome di derivazione araba da abbaziz, che significa mandorla buona. Non sono sicura della pronuncia. Ebbene sì, sono anche loro dei legumi, strani ed atipici, ma sempre legumi. Gli arachidi in Europa se ne consumano ben 600.000 tonnellate l'anno, di cui 30.000 solo in Italia. La provenienza attualmente è per lo più Cina e India, ma anche Egitto e altri paesi africani. Anche dal punto di vista nutrizionale hanno la loro da dire, con il 17% di proteina che sale al 25% nel caso del burro o crema di arachidi. Hanno anche un buon 50% di grassi, motivo per cui se ne estrae l'olio, che è interessante per la resistenza alle alte temperature, quindi per cuocere e friggere. Meno raccomandabile il consumo di quelle sommerse di sale. Anche sul burro di arachidi un paio di cose interessanti. Nel 2022 in Italia la grande distribuzione ne ha venduto 2,4 milioni di chili, una cosa molto recente come moda. Però attenzione, quello preferito dagli italiani, soprattutto sportivi e salutisti, è quello fatto solo e soltanto di arachidi e non quello pieno di sale e e altri acidi grassi, modello USA. Le arachidi sono originarie dell'America del Sud e arrivarono in Europa verso il 1500 attraverso i conquistadores, e questo spiegherebbe anche il nome spagnoletta. In Italia sono arrivate verso la fine del 1700, trovando interesse diversi piccoli coltivatori, tant'è che negli anni 50, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sembra vi fossero più di 5.000 ettari in coltivazione. Nella nostra regione ho riscontrato diverse memorie di coltivazione familiare, soprattutto a livello di orti, e da qualche anno ci sono un paio di aziende agricole nel Pordenonese che ne hanno fatto non solo una coltivazione professionale, ma una vera e propria filiera che arriva al prodotto finito. Quella dell'arachide è una strana pianta annuale, simile a un fagiolo nano oppure a una soia. Si semina a primavera molto inoltrata, necessita di un terreno leggero e senza sassi, ma anche di un po' d'acqua, soprattutto nelle prime fasi, e soprattutto di una bella stagione calda. La cosa strana è che la pianta arriva a fioritura come tutte le leguminose, ma poi dal fiore allegato esce un filamento che si tuffa nel terreno e lì sviluppa il frutto, che è quello che poi conosciamo. Quindi l'arachide fiorisce al sole, ma il frutto cresce sottoterra. La raccolta avviene in due fasi, un po' come per le patate. Prima si sterrano, si attende qualche giorno che i fiori si asciughino e poi si raccolgono. Non ha grandi esigenze nutrizionali, è pur sempre una leguminosa, quindi si arrangia. Né particolari problemi fitosanitari, ha solo bisogno di un terreno leggero, meglio se sabbioso o torboso, e di una buona estate, per il resto fa da sola. Se volete vedere come avviene la coltivazione in Friuli, vi lascio su Facebook un video. Il progetto di un vino d'eccellenza inizia già al momento della macerazione del pigiato, lo dice il professor Roberto Zieroni. I vini che vengono costantemente citati nel mondo come eccellenti sono sempre gli stessi. Ma quali sono i parametri che marcano la differenza tra i vini ottenuti da un adeguato progetto enologico e questi vini citati come eccellenti? In Borgogna, ad esempio, esiste un modello di viticoltura che collega il vino con il suo specifico luogo di origine, definendo il climat. Questi appezzamenti delimitati coltivati a vite presentano ognuno caratteristiche geologiche di esposizione specifiche le quali, dopo l'intervento tecnico dell'uomo, danno origine a vini dal gusto unico. Ad esempio il climat di La Tasse di Romanée-Conti è un vigneto di 6,06 ettari con produzione di 25 ettolitri di vino per ettaro, equivalente a una bottiglia di vino ogni tre piante di una vite avendo un'età media di 50 anni. L'eccellenza è pertanto il risultato del binomio vigneto tecnologia enologica a confermare l'affermazione che la qualità del vino si ottiene nel vigneto e la tecnica enologica può soltanto non disperdere le qualità presenti nelle uve. Qualità variabili che in taluni casi diventano esclusività ed eccellenza. Per quantificare la potenzialità di un vigneto in maniera oggettiva, si può oggi utilizzare un valore numerico codificato denominato indice Bigot, o potenziale qualitativo del vigneto, dal nome dell'agronomo friulano che lo ha studiato ed applicato a livello internazionale. L'indice si focalizza su 9 punti critici viticoli, che sono correlati con la qualità finale dell'uva e di conseguenza del vino ottenibile. Dato che sono parametri modificabili con opportuni interventi agronomici, sono suscettibili di migliorare nel tempo le performance del vigneto e permettono di classificare un vigneto come idoneo a produrre vini di qualità crescente sino all'eccellenza e quindi di progettare l'eccellenza. Oltre all'indice Bigot, non appena la vite raggiunge la maturità fisiologica e negli asini si realizza il blocco floematico chiamato anche blocco del sugar loading, è necessario utilizzare altri indicatori di qualità del vigneto, in quanto le attività metaboliche della bacca portano all'evoluzione in particolare delle sostanze aromatiche polifenoliche. Gli studi condotti negli ultimi 20 anni dal ricercatore francese Alain Deloire ci hanno dimostrato che prima di tutto è necessario determinare il punto di blocco floematico, che viene definito giorno zero, di zero. Questo parametro è legato alla varietà, ma subisce l'influsso delle variabili meteorologiche della tecnica viticola applicata. Dal giorno zero ha inizio un processo che può durare anche parecchi giorni, di sviluppo dei composti all'interno del frutto con un'evoluzione autonoma e indipendente dal resto della pianta. Sarà compito del team di lavoro aziendale individuare i parametri che definiscono il momento più idoneo alla raccolta. Ogni vitigno ha un suo valore target che funziona delle caratteristiche dell'ambiente di coltivazione. Per questo motivo l'andamento dei parametri studiati dovrà essere contestualizzato sulla base dello storico territoriale di tali valori per mantenere l'eccellenza. L'ispettore della forestale Dario Di Gallo per la rubrica dei grandi alberi oggi ci porta a conoscere il Tiglio di Napoleone a Rutte Piccolo. Nel territorio della Val Canale, dove le tradizioni risentono fortemente della cultura mitteleuropea, particolarmente vicina alla natura e alle sue manifestazioni, si trovano ancora numerosi alberi di considerevoli dimensioni, diffusi sui monti, negli alpeggi, nei boschi e nelle belle borgate. E proprio in una di queste, a Rutte Piccolo, idilliaco villaggio adagiato sui morbidi colli prativi che si dispiegano a sud dell'abitato di Tarvisio, si radica uno degli alberi più belli della nostra regione. È un monumento naturale, è il Tiglio di Napoleone. L'intrigante denominazione è legata alle narrazioni locali che ci raccontano della sosta sotto queste fronde di Napoleone Bonaparte nel corso degli scontri tra francesi ed austriaci che si svolsero su queste alture nel 1797. La pianta, un tiglio selvatico, è caratterizzata da 6 enormi fusti che partono dalla stessa ceppaia, formando una maestosa ed armoniosa cupola dalle dimensioni e dalla forma impareggiabili. Ha una circonferenza di circa 11 metri ed un'altezza di 26, con un'età recentemente rivalutata di circa 300 anni. Il diametro della sua chioma raggiunge i 30 metri, posta poco fuori dall'abitato in una proprietà privata e per la cui visita è richiesto un particolare rispetto e cura dei luoghi. Il tiglio è un albero che le genti della nostra terra hanno sempre tenuto vicino alle nostre comunità, rispettando quel senso di sacralità che accompagna questa specie. Rispetto che è venuto brutalmente a mancare per questo magnifico albero, in quanto pochi anni fa, contro la volontà dei proprietari e dei residenti e con la tipica protervia e cecità del potere, gli è stato costruito a fianco un orribile pilone metallico di una linea elettrica che proviene interrata dal territorio austriaco e che riemerge sui tralicci in territorio italiano, segno del nostro aggressivo ed rispettoso approccio culturale alla natura. La vigilia di Natale è il nome con sé, tradizione vuole che si dovrebbe mangiare di magro. Che cosa? Ce lo dice Roberto Zottar. Il Natale è stato fissato convenzionalmente al 25 dicembre, solo dalla metà del IV secolo d.C. e perpetua le feste pagane del solstizio d'inverno, che apre la fase ascendente del ciclo annuale. Osservata da tutti, la vigilia di Natale in cucina contemplava solo piatti di magro. In Friuli il pesce veniva approvvigionato dai pescivendoli di Marano, che nei giorni di vigilia andavano in giro di casa in casa con la bicicletta, gridando frittura, sarde, siegui, sgombri, go, seppe, bisatte, masanette. Come primo piatto c'erano i bigui in salsa, cioè spaghettoni conditi con sarde sotto sale soffritte in olio. Tipico anche il risotto coi caperozzoli, sempre in bianco, con i molluschi tolti dai gusci ed una buona metà tritata a costituirne la base. Tra i secondi piatti, baccalà o renga o anguilla marinata, ma anche passera coi vovi, che nei mesi invernali, lasciate le lagune, viene a riprodursi lungo il litorale dove viene pescata. Si mangiava fritta con le verze stufate. A proposito di pesci, un detto recita: «De Nadal è il branzinetto con la sfoglia e col bisato, de Pasqua l'agnelletto con i vovi e pinza in piatto». Per mantenere la tradizione dei caperozzoli, io li amo con gli spaghetti, più veloci da fare e molto gustosi quando sono resi cremosi. In un tegame a fuoco vivo, con un 4 cucchiai d'olio, 2 spicchi d'aglio schiacciati e un ciuffo di prezzemolo con i gambi, fate aprire 1 chilogrammo di caperozzoli o di peverasse e sfumate con vin bianco. Togliete dal fuoco, filtrate il liquido di cottura. In un tegame soffriggete in olio dell'aglio, rimettete il liquido dei caperozzoli e 350 g di spaghetti cotti al dente. Il segreto per dar cremosità al piatto è di spadellare molto e con energia per creare un'emulsione tra l'olio e il liquido delle vongole. Aggiungete le vongole tenute da parte, volendo già sgusciate, aggiungete prezzemolo tritato, pepate bene, spadellata finale e buon appetito e buon Natale a tutti. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari. Venerdì scorso, nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14%, è stato quotato tra 20,60 e 20,90 euro il quintale IVA esclusa. Il frumento tra 20,50 e 21. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 19,80 e 20,30. E la soia tra 45,30 e 45,80. La commissione camerale di Pordenone e Udine ha determinato in questi ultimi giorni il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 48 e 50 e 50 centesimi il litro più premi in qualità e IVA. Ha determinato invece il montaggio di 90 giorni tra 8,60 e 8,80 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 9,80 e 9,90, lo stagionato 12-15 mesi tra 10,10 e 10,30. disponibilità per il prosciutto di San Daniele. Lo stagionato di 16 mesi viene pagato con osso fra 13,50 e 17,50 euro il chilo IVA esclusa, quello di sossato fra 18 e 21,50. Infine, in leggera ripresa il settore degli avicunicoli con prezzi in salita. Il valore dei poli a terra varia da 1,37 a 1,39 euro il chilo IVA esclusa. I capponi natalizi tra 4,90 e 5 euro. Le anatre da 3,46 a 3,50. I tacchini maschi da 1,70 a 1,72. Le faraone da 3,78 a 3,88. I conigli oltre 2 kg e mezzo da 3,14 a 3,20. Le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 21 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanutto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Il mese di dicembre è iniziato con un sistema frontale che ha portato piogge molto intense sulle Prealpi e sulle Alpi Giulie, specialmente sul massiccio del Canin. La neve è caduta inizialmente solo alle quote più elevate, per toccare alla fine dell'episodio anche il fondovalle trevisiano, dove si sono registrati 10-15 cm di neve. Complessivamente sono state misurate piogge abbondanti sulla costa, 20-50 mm in pianura, tra i 50 e i 100 in Carnia, 200 sulle Prealpi Carniche e 350 mm sulla zona del Canin. Lo scirocco, che ha soffiato forte in quota, ha spinto la temperatura a Trieste fino a oltre 18 gradi. Poi le giornate sono state all'insegna della variabilità, con alternanza di cielo sereno e di cielo più nuvoloso, con qualche precipitazione sparsa. In pianura ci sono state alcune gelate, con forti brinate, e in montagna si toccano anche i meno 10. Le giornate sono rimaste piuttosto fredde, di stampo tipicamente invernale. Poi, per qualche giorno, le temperature sono tornate a rialzarsi. Mercoledì scorso, un altro fronte ha portato piogge abbondanti a ovest e intense a est, con 10 cm di neve a Tarvisio e a Sappada. In ogni caso, è sempre la zona delle Alpi Giulie ad essere in testa nelle precipitazioni. Sul gruppo del Canin e sulla zona di Cava del Predil, la precipitazione complessiva del mese è dell'ordine di 400 mm, con caratteristiche più autunnali che da pieno inverno. Alla fine della prima quindicina del mese, la temperatura media risulta essere tra mezzo grado e un grado superiore alla norma in pianura e sulla costa, mentre è rimasta di un grado sotto la media in montagna. Negli ultimi giorni hanno dominato le correnti settentrionali più fredde, che hanno riportato tempo più soleggiato e maggiore escursione termica. Ora torna a dominare potentemente l'anticiclone delle Azzorre, che invade tutta l'Europa occidentale e centrale, e porterà lo zero termico dei 1000 metri di ieri ai 3000 metri di lunedì e martedì, con una pressione al suolo di circa 1040 ettopascal. Ovviamente si ha una forte inversione termica nelle valli, specie di notte, mentre ad alta quota sembra primavera. Questa forte instabilità resisterà probabilmente almeno fino a mercoledì sera. Ci aspettano dunque belle giornate con cielo sereno su tutta la regione e aria decisamente secca a tutte le quote. Le temperature saranno eccezionalmente alte in quota, con valori attorno a più 8 o 2000 metri e inversione termica notturna nelle valli. Le temperature saranno decisamente alte anche in zona collinare e sul Carso, mentre sulla media e bassa pianura ristagnerà un cantino di aria più fredda, che porterà anche qualche gelata notturna. Lo zero termico rimarrà a circa 3.300 metri circa. Mercoledì potrebbe esserci inizialmente il formarsi di nubi basse in pianura e costa, e poi un indebolimento dell'anticiclone con il passaggio di un fronte, che potrebbe portare forse a qualche debole precipitazione. Poi tornerà probabilmente l'anticiclone fino a Natale. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Nadal in place, Pasche sulla glace, ovvero se a Natale si può stare in piazza, quindi all'aperto, senza freddo, Pasqua invece sarà ghiacciata. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.